da partire magari da non so, in tutti i sensi. Non so quale delle macchine, molte volte me l'hanno detto, c'è quello che mi dice che riesco bene, c'è quello che mi dice che è un po' malattolone, c'è quello che mi dice che è così, ma cosa me ne frega a me? Ma mi sente, la puti dimmi. Ma per quello te l'ho detto già, non c'è devi offendere se uno ti dice la radio è barattolosa o stronzata del genere, le offese non sono quelle, le offese sono quando uno ti dice che tu sei un gran figlio di puttana, ecco a quel punto lì ti devi offendere perché ti ha detto una frase che sta offendendo a te e non a te, ma per dirti che la radio è tua gracchia e tutte queste cose, ma le offese sono, queste sono stupidaggini o nunca, dai, ma non, fate grande. Infatti quello che sto dicendo, non me ne frega niente, non mica mi sono offeso. Ma so, le offese sono iniziate di bastardo e di puttana e tutte queste cose qua. Quelle sono offese, sì. Lo so. Non mica mi offendo per il baracchino, ma cosa me ne frega? Se mi vuoi sentire è questa, se no cambia canale, cosa me ne frega a me? E tu dici, aspetta un attimino, aspetta, io cerco di uscire più bene possibile. Poi se baracchino non esce così, io colpa non ne ho, non ne ho 20 di radio, 30. Ne ho una e basta. Ma certo, non è il problema, noi c'è come ha le sue possibilità, se tu le possibilità di avere una radio per parlare ha un costo di 200-300 euro e non di 2.000 o 4.000 euro, esci con quella radio lì, se non riesci a sentirti pazienza, non si può fare, miracoli non ce ne sono, uno economicamente si presenta come può. È fatto così. O voi questa o state la finestra? Però c'è qualche personaggio che qualche volta si mostra gentile, si mostra qui e là, eccetera, eccetera, invece e poi arriva la forchina. Vabbè, ma comunque siamo neanche parlati in camera, non è passo. Cioè vuol dire parlati in camera? Non mi interessa. Molte volte ci sono dei discorsi, tipo ieri, vedi, ieri c'era quello che raccontava Barzelletta, andava bene così. La verità, io sono sincero. Molte volte è capitato che mai parlavano di infarti, cose così, a me queste cose mi prendono male. Allora, sì, l'altra volta ci ho parlato, ma poi già mi stavo prendendo male. E alla fine, ma che me lo fa fare? Veramente, Vito, mi stava... che l'ho preso, non è male, ho preso il fatto baracchino. Tu non vuoi sentire di farti cose del genere, ma quelli sono fanno parte della vita. Purtroppo anche quei discorsi bisogna fare, perché uno quando è giovane, vabbè, quando comincia ad avere una certa età, quelle cose lì ci pensa, eh. Vabbè, non so, sono cose della vita, purtroppo sono cose che prendono anche male. Ma prendono anche male, dipende dai caratteri, c'è quello che non gli frega niente, c'è quello che invece quando sente situazioni di malattie eccetera, allora ostacola e se ne va, è ben chiaro, ma questa è una cosa normale, però non tutti siamo uguali. Infatti, non è che... Vabbè, questa cosa mi prendono male, boh, stop. Tanto, quando deve venire, viene, non è che sta... che fa a sorteggio, se deve venire a chiunque. Guarda, è una cosa naturalissima, uno sta camminando in una strada normale, in una via tranquilla, pacifica, te ne scende un'insegna in testa dal vento, eccetera, come è successo, visto proprio io davanti ai miei occhi, che c'era una donna di una certa età, e c'è un'insegna lì, è crepato, gli ha spaccato il cervello, ma non c'è da niente, quello non gli è sceso, non ha fatto niente, quello è un incidente, questa insegna muoveva dal vento, purtroppo la sradicata è andata a cadere proprio, poteva capitare nessuno lì in quel momento, no, so c'era questa donna, per dire, questi sono incidenti, no? Infatti, non so, ma non è solo quello, capita magari, non so, passeggiando, trovi un fosso, un marciapiede, e cadi, boh, morto. Appunto, questi sono incidenti e poi lascia prendere il fosso, perché tu ti puoi sentire male improvvisamente, senza niente, stai camminando, ti c'è un piccolo infarto e te ne vai, è la vita, ma non è uno e due, ce ne sono centinaia. Lo so, purtroppo sono cose che capitano, non è che viene così, cioè non è a sorteggio, oggi a te, domani a quello, no. Ma non ti viene, ti viene. purtroppo sono cose che succedono. Quanti ne sono morti? Un sacco. Ma c'è qualcuno che si è salvato per un pelo. Ma c'è più di uno ce l'hanno fatta. E vabbè, pazienza, cosa ci vuoi fare? Viviamo la giornata e via, tanto. È così. Vabbè, Danu. Ho avuto un richiamo qua. Ce lo risentiamo. Chiudo adesso e magari se ci sentiamo più tardi, già un'altra chiacchieratina ce la facciamo. Ce lo risentiamo. Ciao Soltoni, e buon tutto. Ciao, ciao Vittorio, buona serata, alla prossima, ciao. Va bene, aspettiamo l'altro.